Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Come sempre, alcune informazioni di servizio. La prima è la nostra mail sottotiro@radio24.it, la seconda è il mio blog Guardie o Ladri sull'home page del Sole 24 Ore o con un qualunque motore di ricerca. Allora, più o meno in questo periodo, in queste settimane, esattamente un anno fa, tutti i giornalisti, non soltanto italiani, ma anche delle testate internazionali, dei media mondiali, ricordo addirittura inviati dalla Svezia, perché io ero lì in quel periodo, per il mio giornale Il Sole 24 Ore, hanno e abbiamo seguito le dichiarazioni del pentito di 'Ndrangheta Francesco Fonti sull'affondamento, vero, presunto, falso, non si è più capito, delle navi dei veleni al largo delle coste calabresi di Cetraro e in realtà anche al largo di altre coste italiane. E no, tutti noi ci concentrammo su quello. Io mi concentrai anche sul mio blog su un aspetto che fu molto trascurato, vale a dire il fatto che la 'Ndrangheta utilizza o utilizzerebbe, su questo ci sono state diverse inchieste che poi non hanno partorito molto, anche le cave e i laghi della Calabria per smaltire rifiuti tossici, nucleari, chi più ne ha più ne metta. Questo con un gravissimo danno per la cittadinanza, per la salute, e ovviamente con un'enorme fonte di arricchimento per le mafie. Pensate che soltanto nella zona sud di Crotone sarebbero state finora smaltite illegalmente 350.000 tonnellate di rifiuti cancerogeni. Figurate voi per il resto della Calabria. Fino a poco tempo fa, io francamente non ho più fatto studi, ma credo che non ce l'abbia nemmeno oggi, la regione Calabria non aveva nemmeno un registro delle cave, quindi cave abusive a più non posso, e la 'Ndrangheta via ad arricchirsi. Allora, noi per capire anche che quando si parla di mafia non è che si parla tanto di grandi sistemi, ma si parla anche di salute, abbiamo chiamato con noi un grande oncologo calabrese che si chiama Pasquale Montilla, che ha fatto molte indagini sul tema. Buongiorno Montilla. Buongiorno. Allora, facciamo capire che queste mafie, quando fanno quello che fanno, si arricchiscono, ma a spese innanzitutto della salute dei cittadini calabresi. Ci spieghi un pochino che cosa hanno scoperto i suoi studi e dove? Ma guardi, io ho fatto uno studio in base su un'osservazione clinica palese, evidente. Intanto, facendo parte di una commissione oncologica regionale immobile per dieci anni, mi ero posto il problema come mai in Calabria mancasse non un registro delle cave, ma un registro dei tumori. Ah, fantastico, abbiamo scoperto che manca un altro registro, bene. Ma il registro dei tumori, le linee guida nazionali e internazionali imponevano l'applicazione di un registro tumori proprio per dare la possibilità di un'analisi ben precisa, descrittiva, completa, al fine di una elaborazione dei dati di interventi precisi. Era già riconosciuta una elevata mortalità per patologia oncologica a Crotone, considerato che c'era la pertusola. Esattamente. Ma di fatto io sono partito su una valutazione, ripeto, epidemiologica, su un campione di territorio, un campione di territorio molto, molto, molto ristretto, che è la zona di Catanzaro Nord, e in particolare un paese di Cimigliano, dove avevo rilevato che c'era un aumento di incidenza di patologie oncologiche. Ecco, lei ha detto Cimigliano, no? Cimigliano, sì. Oh, dunque, lei ha fatto però degli studi anche nella cintura della diga sul fiume, sì, Melito, che mi sembra molto molto importante, e lo diciamo ai nostri radioascoltatori, sì, la diga sul fiume Melito dovrebbe essere stata costruita, sì, da almeno 20 anni, o meglio, diciamo così, sono 34 anni che la diga sul fiume Melito è in costruzione, ricorsi, controricorsi, accuse, controaccuse. Ma che cosa accade intorno alla diga sul fiume Melito? Spieghi lei. Guarda, lì è in costruzione questo grosso bacino per un importo di lavori intorno a 250 milioni di euro, quindi sono molti gli interessi da parte, e lì c'è praticamente attorno a qui, cioè, è pieno di discariche antropiche dismesse. Certo. Ci sono delle cave a nord e sulla base di questa mia prima valutazione di studio avevo riscontrato che una delle più grosse discariche antropiche classificata come la terza per pericolosità da danno ambientale non era stata bonificata. Bene, intorno a questa diga, questo bacino di diga in costruzione, uno studio che io ho verificato da parte di un'universitaria rilevava la presenza di alte concentrazioni di arsenico e di metalli pesanti nelle acque idropotabili. Certo. Questo significa che un eventuale inquinamento del bacino della diga potrebbe, che andrebbe a irrorare 32 comuni della provincia di Catanzaro e del capoluogo, potrebbe essere di fatto un rischio per la salute, oltre che un rischio. Assolutamente. Allora, io per farvi capire un po' meglio qual è anche il giro d'affari che l'Andrangheta, le cosche calabresi hanno sulle cave ovviamente dismesse o su quelle abusive, il 26 settembre 2009, chi vuole può andarla a vedere nell'archivio del mio blog Guardie o Ladri, scrivevo testualmente questo: è stato calcolato che la più piccola delle cave scoperte nel 2004, cave quindi dismesse e utilizzate dall'Andrangheta, pari a 2000 metri quadrati, quindi voglio dire non stiamo parlando neppure di cifre gigantesche come metraggio quadro, fruttava all'Andrangheta 100.000 euro all'anno, che voglio dire per l'Andrangheta sono sciocchezze visto che fattura 51 miliardi di euro all'anno, però voglio dire sono 200 milioni delle vecchie lire. Quindi il fenomeno molto poco conosciuto è drammaticamente reale per la salute dei cittadini calabresi, quindi alta vigilanza, come ci ha testimoniato Pasquale Montilla, medico oncologo calabrese, che ringrazio per il suo intervento. Prego, velocemente. Sì, è chiaro, le discariche, io la dico come oncologo, posso dire che rappresentano un perfetto modello di cancerogenesi ambientale. E pertanto una prevenzione efficace primaria dei tumori non può prescindere da una drastica riduzione delle esposizioni a questi contaminanti ambientali. Assolutamente. Io la ringrazio per la sua testimonianza. Dico grazie in regia a Peter Bescapè, in studio a Laura Fagin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani con una nuova puntata.